E siamo a questo speciale Visionari che è anticipato rispetto al giovedì 1 gennaio ad oggi martedì 30 dicembre. Per quanto riguarda la scaletta della trasmissione di oggi, i riferimenti li trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo è sempre lo stesso, visionari@ondarossa.info. Saremo oggi è uno speciale perché parleremo con alcuni critici cinematografici e amici, colleghi di film che hanno preferito, la cinquina dei film preferiti in quest'anno cinematografico tra quelli usciti in sala, e poi nella scaletta trovate anche le uscite in sala di domani, giovedì 1 gennaio, dopodomani, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, il link per riascoltare la puntata precedente, ma anche tutto l'archivio del 2014 e del 2013. Il primo ospite di questa puntata speciale è Paolo Mereghetti. Ci sei, Paolo? Ci sono. Oh, ben ritrovato, come ormai da qualche anno a questa parte succede, sempre sul finire dell'anno cinematografico, anche se poi è l'anno solare, l'anno cinematografico ha delle scadenze un po' diverse, e anche quest'anno sei con noi. Allora, intanto benvenuto, ben ritrovato, e ti chiedo subito, facciamo un po' un bilancio a tuo modo di vedere di questa annata cinematografica in generale, Paolo. Diciamo, in generale non è stata male, nel senso che mi sembra che si siano visti dei buoni film, certo, forse non tanto dalla Hollywood tradizionale, che ha continuato, che sta percorrendo questa strada dei remake, dei rifacimenti, dei numeri 2, 3, 4, che si sono dimostrati abbastanza sicuri sul piano degli incassi e quindi, come dire, hanno spinto tutte le grandi case di distribuzione e anche di produzione a rifare sempre le stesse cose. Addirittura una notizia, come dire, non tanto positiva, è che quelle stesse case, molte, hanno chiuso quelle succursali che si occupavano di film un po' più sperimentali o comunque un po' meno semplici. Però in generale il cinema indipendente americano ci ha dato, mi sembra, dei buoni titoli. Il cinema europeo non è stato lì con le mani in mano, non so, e anche il cinema italiano, in fondo, al di là dell'Oscar a Sorrentino, che è arrivato quest'anno ma per un film dell'anno scorso, però comunque Le meraviglie di Alice Rohrwacher a Cannes mi è sembrato, come dire, un grande riconoscimento, e allo stesso modo quest'anno a Venezia i tre film italiani in concorso sono stati tutti e tre molto ben accolti, che è una cosa che non succedeva, direi, quasi da secoli, ecco. Quindi in generale mi sembra che l'offerta cinematografica sta discreta. Certo, adesso sotto Natale siamo un po' assediati da commedie non sempre all'altezza delle aspettative, succede, però per esempio il fatto che il pubblico abbia preferito certi titoli ad altri, che non so, Il giovane favoloso su Leopardi, che era sicuramente un film su cui nessuno era pronto a scommettere, diciamo, il box office, abbia superato i 6,5 milioni di incasso, e che invece certe medie, non so, penso a quella di Paolo Ruffini o di Massimiliano Bruno, tanto per fare dei nomi, ma come dire, ce ne sono tante così, invece siano state, come dire, un po' dimenticate dal pubblico, fa ben sperare, nel senso che ci siamo un po', mi sembra che anche il pubblico italiano si sia un po' stancato delle solite commedie, che preferisca la qualità o comunque delle caratteristiche un pochettino più alte, però sappia scegliere anche dei buoni prodotti in generale, ecco, dei buoni prodotti non convenzionali, diciamo così. Senti, strettamente legato all'offerta è il discorso distributivo. In questo caso cosa ne dici? Ma secondo me la distribuzione italiana è ancora una distribuzione che avrebbe bisogno di essere messa a punto, di essere regolata, nel senso che non lo so, il fatto che una casa di distribuzione, come dire, blasonata come la Lucky Red abbia voluto mettere in catalogo un film come Di che segno sei, cioè che di fatto è un cinepanettone ultra tradizionale e che peraltro non sta andando tanto bene, fa pensare poi che, come dire, le sirene del dollaro, per dirla così, per dirla in questi termini, finiscano per attirare tanti e magari far tradire delle belle produzioni di qualità. Non so, cioè, il problema vero della distribuzione italiana è che forse stanno arrivando troppi titoli e che quindi se il film non incassa immediatamente alla prima settimana, al primo weekend, immediatamente viene messo da parte e sostituito con un altro, ma impedendo così a certi film di crescere col passaparola, con darne qualità. E poi il fatto che la distribuzione voglia concentrare tutti i titoli soltanto nei periodi cosiddetti migliori, diciamo ottobre e febbraio, finisce poi per come dire, lasciare scoperti tanti mesi interessanti. Quest'anno praticamente da maggio non si è visto un buon film o quasi. E quando poi, come dire, fai perdere l'abitudine di andare al cinema perché dici tanto non c'è niente, poi è difficile riprenderla. Le abitudini si perdono velocemente, ma poi a recuperarle si fa fatica. Arriviamo alla cinquina. Tu alcuni titoli italiani li hai menzionati, ma i tuoi cinque preferiti dell'anno quali sono? Boh, ho fatto un po' fatica a trovarne cinque, però diciamo che comincerei con A proposito di Davis dei fratelli Coen, e poi metterei Due giorni e una notte dei fratelli Dardenne, poi Le meraviglie di Alice Rohrwacher, Il giovane favoloso di Martone e chiuderei al quinto posto con Boyhood di Linklater. Un film americano, due film europei e due film italiani, due film americani, perché Linklater di fatto è un film americano, due film americani, un europeo di Dardenne e due italiani. Mi sembra una scelta equilibrata. Senti, qualche parola su ognuno, qualche rapida parola su ognuno, ce la dai? Ma sì, i fratelli Coen sanno sempre raccontare questa capacità delle persone di fare i conti con la difficoltà della vita. Qui è questo aspirante cantante folk, anche bravo, che però, come dire, commette l'errore non suo di cercare di far carriera quando c'è Bob Dylan, ma soprattutto al di là di questi casi c'è l'idea presente molto di questi job moderni, di queste persone, come dire, che devono fare i conti con un destino che sembra remare contro. I fratelli Dardenne hanno raccontato con la solita precisione di tratto, con la solita attenzione al reale, uno dei drammi che stiamo vivendo, dimostrando che si può fare grande cinema con grandi star. Marion Cotillard è una star, ha fatto Batman, ha fatto tantissimi film, però con loro saper raccontare con credibilità il problema di chi non ha lavoro, dei più sfortunati. Le meraviglie è stato una bellissima sorpresa. Alice Rohrwacher mi sembra una delle vere grandi, più che speranze, quasi certezze del cinema italiano. Ha saputo raccontare questa vita un po' ai margini di questa famiglia, la voglia di ribellarsi a certe convinzioni, però anche senza rabbie gratuite, ma anche con la coscienza che alcune cose sono importanti, che certi affetti sono importanti. Il giovane favoloso è questa specie di scommessa molto azzardata di fare un film su un poeta, che è una cosa molto difficile perché spesso si finisce per esaltarlo, per farne della geografia facile, e invece qua Martone, scegliendo due periodi, quello iniziale di Recanati e quello finale a Napoli, ha saputo proprio raccontare, secondo me, delle cose molto positive e belle, e metterci a contatto con la poesia vera di Leopardi. E poi Boyhood è questa scommessa folle di fare un film che dura 12 anni, di veder crescere davvero, e non con trucchi cinematografici, due ragazzi da quando hanno 7-8 anni a quando ne hanno 18, una roba del genere, come dire, di essere riuscito a farla con due attori professionisti, l'Archette e Dan Hawkes, però con due ragazzi praticamente presi dalla strada, una è la figlia del regista, l'altro è un giovanissimo, e sanno restituire questa scommessa di questo cinema che sa raccontare la vita com'è veramente, che non è una qualità da poco. Bene, io ti ringrazio Paolo e un abbraccio, auguri per questo 2015 e a risentirci presto. Grazie a voi, auguri a tutti. Ciao. Questo era Paolo Mereghetti. Anna Maria Pasetti. Buonasera a tutti. Ciao, ben ritrovata. Abbiamo appena cominciato, vieni dopo il Paolo Mereghetti. Noi ci sentiamo una volta l'anno ormai, però insomma è sempre un piacere. Che ci dici? Condivido. Beh, dopo Paolo Mereghetti, insomma, voglio dire, potete anche abbandonare la trasmissione, no? Ubi Maior. Io comincerei, Annina, con un bilancio dell'anno cinematografico. Dunque, io vivo sempre l'anno cinematografico in maniera molto schizofrenica, perché frequentando chiaramente festival e situazioni che mi permettono di vedere pellicole che non sono visibili nelle sale, o quantomeno non ancora, cioè li vedo con largo anticipo, io posso magari fare un resoconto un po' misto, cioè da una parte quello che è uscito in sala, che è più o meno quello che ormai è la standardizzazione, no, del cinema contemporaneo, cioè quello che i distributori ci permettono di vedere in Italia, che è un paese in caduta libera rispetto agli acquisti, rispetto alle scelte appunto da mettere in sala, e poi spiegherò perché. C'è la qualità, c'è una buona dose di qualità, e poi c'è il marketing, cioè non so come dire, le pellicole, i film standard, i film blockbuster, le commedie bruttissime, i drammi peggiori, e anche qualche cosa di medio, no? Il prodotto medio. Sì. E questo è quello che insomma si arriva nelle sale. Quanto a quello che io personalmente ho visto negli ultimi due anni, devo dire, anche grazie al fatto che vedo molte opere prime, essendo in selezione della settimana della Critica di Venezia, ci sono tanti talenti che stanno venendo fuori, no? In tutto il mondo, e forse quelli che vengono fuori di meno sono gli italiani, cioè parlo proprio di giovani. Mm-hmm. E questo è un po' un peccato, no? Lo dico con rammarico. Mm-hmm. Io ho visto tantissime cose in giro per il mondo che in Italia non arrivano, appunto, a meno che non vincano premi importanti. Talmente importanti che, come dire, è una vergogna se non escono. Faccio un esempio: il film cinese che ha vinto quest'anno a Berlino, no? Adesso non mi chiedete il titolo, neanche il nome del regista, un confin cinese molto bello, è uscito giusto perché ha ricevuto l'Orso d'Oro, altrimenti sarebbe passato inosservato, invece insomma è un'opera di valore. Quindi, che dire, il bilancio per me rispetto all'Italia è veramente frustrante. Quanto a quello che il cinema invece ha in potenza e anche in azione, è buono. Sì. Allora, arriviamo ai cinque che hai scelto. Sì, io ho meditato, attenzione. che è uscito, ho fatto una scelta anche andando a pescare nelle categorie, perché altrimenti diventerebbe un po', sarebbe stata un po' squilibrata, no? Quindi mi sono presa un documentario, un film italiano e un film, diciamo, di produzione non americana, ecco, e gli altri di mio gusto personale. Se sono cinque, allora parto dal documentario, perché mi fa piacere dare alle categorie meno così significative dal punto di vista dei media, ma molto dal punto di vista dell'apporto al cinema. Un film secondo me straordinario, che è The Look of Silence di Joshua Oppenheimer, che ha vinto, tra l'altro, se non sbaglio, il Gran Premio a Venezia, il Gran Premio della Giuria Venezia, o se mi sbaglio, adesso andiamo a controllare, comunque non è tanto quello, comunque era il concorso all'ultima mostra di Venezia, ed è una cosa incredibile, secondo me. Lì rispetto di Act of Killing, non so se quello che sto dicendo ha un riscontro, se li hai visti. No, non l'ho visto, non l'ho visto. Non so di Act of Killing se ti era capitato di vedere, era stato anche candidato all'Oscar. Documentario che questo americano Joshua Oppenheimer ha girato in Indonesia, tirando fuori il marcio che c'ha, perché c'è stato un periodo nella storia dell'Indonesia in cui i comunisti sono stati massacrati, no? E coloro che poi perpetrarono il massacro dei comunisti in maniera allucinante, oggi sono la classe politica dirigente in Indonesia. E questo, insomma, la dice lunga. Quindi questo film, che è il dittico appunto con Act of Killing, fa vedere come Joshua Oppenheimer, stando 10 anni in Indonesia, è riuscito a avvicinare sia le vittime che i carnefici e in qualche modo a farli incontrare. Quindi sì, insomma, film pazzeschi. Sì, sì. Quanto al film, ecco, italiano, cercando un po', giusto perché insomma c'erano degli ottimi film, devo dire, in concorso a Venezia quest'anno, però appunto io quando dicevo che il cinema italiano è in caduta è perché non sto vedendo dei talenti giovani, quantomeno poca roba, però ci sono alcuni autori affermati che stanno dando alcune soddisfazioni. Uno di questi, secondo me, è Paolo Verzì, che ha fatto un ottimo film, che è Il Capitale Umano, perché io mi sento di mettere tra i più belli di quest'anno. Secondo me è il migliore che lui abbia mai fatto. Scusami? È il miglior film da lui fatto, sì, secondo me. Sì, sì, sì. E poi è anche molto diverso rispetto a quello che normalmente ci aspettiamo da lui, no? Purtroppo non è nella shortlist di stranieri possibilmente candidati agli Oscar, però va bene così, cioè fa niente, chi si frega, è bello. Poi passo al miglior film, secondo me, ecco, che non produzione statunitense, e quindi per me è Ida di Pavel Pavlikovsky, che tra l'altro sta vincendo tutto il vincibile di questo, ed è un film straordinario, secondo me, che incredibilmente il Festival di Venezia ha rifiutato dal concorso e è andato a finire in altre situazioni festivaliere, fino ad approdare a Torino, dove io ho avuto la fortuna di vederlo, e poi è uscito in sala e me lo sono anche rivisto. Una storia importante, girata benissimo, ha già vinto l'EFA, miglior Oscar europeo, diciamo così, ha vinto il premio Lux del Parlamento europeo, e non ho dubbi che arriverà nella cinquina degli Oscar. Film di una grande eleganza, che nel senso migliore del termine, sì, sicuramente. Sì, sì, sì. E poi ho i due film che mi sono stati dei film del cuore, diciamo così, sono entrambi americani in questo caso, e sono molto diversi tra loro, e uno forse più dell'altro mi ha proprio preso il cuore profondamente, che è Boyhood di Richard Linklater, che ho visto a Berlino. Doveva vincere l'Orso d'Oro, invece ha vinto la regia, e l'ho amato profondamente, lo trovo molto vicino al capolavoro per quello, perché è unico nel suo genere. Ora non so raccontare come è stato fatto Boyhood, perché forse qualcuno l'ha già detto. Paolo Mereghetti, sì, già l'ha citato. Anche lui ha citato Boyhood, e quindi non mi sembra il caso di raccontare. Insomma, per me è un film straordinario, gli auguro una grande vita, una fortuna, anche se Richard Linklater è sempre passato un po' così, un dipendente, un po' puro, un po' strano, un personaggio, insomma. E l'altro film che ho amato, che è appena uscito nelle sale, è Gone Girl, L'amore bugiardo di David Fincher, che trovo anche quello, come dicevi tu prima, di un'eleganza, vedete, un'intelligenza, di una sapienza cinematografica, insomma, notevole. È all'opposto, se vogliamo, rispetto a Boyhood, che che prende tutto il tempo che vuole e lavora nella mescolata tra realtà, finzione, documentario, no? Invece Gone Girl è profondamente costruito, montato in un certo modo, molto sofisticato da quel punto di vista, ha una storia importante che lavora anche nello sfondo che anche rappresenta tanto nell'intreccio tra i due protagonisti, e insomma gli attori che sono diretti benissimo, non dico che sono bravi perché sono tutti forse bravi, ma non sono diretti bene, in questo caso sono Rosamund Pike, in particolare la protagonista femminile. E comunque David Fincher a me non è deluso, se non in un solo film, che è Benjamin Button. Ecco, che non ho amato, però negli altri suoi film insomma mi ha sempre convinto. Ecco, questi sono i miei cinque. Diciamo, ho lasciato fuori tante cose, ma come si fa, no? Ci sono anche dei pezzi giganti che ho lasciato fuori, benissimo. Non si poteva mettere tutto dentro. Bene, allora abbiamo Boyhood, che già è a due menzioni su due, per cui solo due? Su due che insomma eri te con Paolo, insomma i primi due. Sono la seconda, allora la seconda va bene. E Anna, io ti abbraccio, auguri 2015, auguri. E ci sentiamo presto. Clemente, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao. Ciao. Auguri, ciao. Questa era Anna Maria Pasetti. Ben ritrovato Fabio Ferzetti. Ci sei? Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, abbiamo già avuto un paio di ospiti e tu sei uno dei degli abituè di questa simpatica competizione. Come persona abitudinaria sono anche un abituè sicuramente. Fa piacere comunque essere un vostro abituè. Allora, qualcosa almeno non cambia. Paolo Mereghetti, Anna Maria Pasetti, ora ci sei tu. Non sono riuscito a sentirli, quindi non potrò. Ho sentito solo che Anna Maria è piaciuto tanto, io invece l'ho quasi detestato Gone Girl, quindi vabbè. Vedi che bello come si varia. Allora Fabio, comincerei subito con un tuo bilancio di questa stagione. Ah, un bilancio? Sì. Ma il bilancio non è malvagio, perché io lo vedo quando devo fare i primi, voi mi chiedete i primi 5, il giornale mi ha chiesto i primi 10 fin dell'anno, ma io arrivo a 20 in un baleno e ne restano fuori anche tanti belli, quindi stranamente nel mondo si fanno e in Italia arrivano, anche se molti purtroppo ancora non arrivano, decine di grandi film ogni anno, quindi non è affatto un cattivo bilancio. Certo, grande è il disordine sotto il cielo, per usare uno slogan abusatissimo che fosse in Cina, nemmeno si ricordano più, perché invece di ordine ne hanno anche troppo. Però non è nemmeno un cattivo bilancio per l'Italia, appunto, anche lì nel più totale disordine, in una, come dire, strana mancanza di regia. La regia, cioè, è forte per i film commerciali, per tutto ciò che appunto mira al pubblico delle sale, dei grandi incassi, ma insomma per il resto c'è una certa paradossale piccola libertà in cui qualcuno si sa introdurre, insomma, perché qualche risultato si vede. Certo, ci vogliono molte abilità insieme, non solo artistiche ma evidentemente anche doti, come dire, tattico manageriali, per riuscire a emergere in un mondo come questo. Insomma, diciamo che non siamo molto bravi a coltivare i nostri talenti. Mi diceva qualcuno giorni fa, che ha un progetto in Francia, dice, ci fanno riscrivere continuamente la sceneggiatura, perché stanno attentissimi a ogni pagina, a ogni riga di dialogo, abbiamo messo i movimenti di macchina, loro non li vogliono segnati, insomma, non, appunto, c'è un tipo di attenzione evidentemente diversa in paesi che invece hanno poi un parco di talenti che viene seguito passo passo, insomma, poi i risultati si vedono. Però nonostante questo, noi insomma non abbiamo, secondo me, troppo da lamentarci. Ok, e un discorso a parte lo farei anche brevissimo, però insomma anche a Paolo chiedevo una notazione sul discorso distributivo. Il problema vero della distribuzione è, come dire, l'esercizio in questo momento, perché sono fiorite anche nuove piccole distribuzioni, appunto arrivano soprattutto poi stando a Roma, arriva veramente di tutto, cioè anzi arriva molta più roba, come dire, di quella che siamo in grado di recensire e su cui fare informazione sui giornali, perché ormai l'imbuto è stretto. Almeno sulla carta stampata si sono ristretti ulteriormente gli spazi, perché i giornali si sono anche rimpiccioliti, e invece continua a aumentare il numero di film che esce, almeno a Roma e immagino anche, credo anche a Milano, insomma, ma non molto, e magari a Torino, però no, troppi sono i film che si fermano magari in queste città, oppure che escono a macchia di leopardo, un mese qua, una settimana lì, in mesi diversi, e quindi non sfruttando appieno le loro possibilità. Un esempio per tutti, un piccolo grande successo romano del circuito off come Fuori strada di Elisa Amoruso, credo che sia rimasto confinato a Roma e poco più, non ha sicuramente girato l'Italia come poteva e doveva, sì. Che è abbastanza assurdo. L'image mancante, l'immagine mancante di Riti Pan, grande cambogiano, a Roma, se io non mi sono proprio distratto, non è mai arrivato, si è uscito solo a Torino, insomma, parliamo di un grande film che sarebbe importante vedere, ecco, che ha una distribuzione ma non ce la fa ad uscire, e anche film più sostenuti, film delle varie BIM, Lucky Red, anche La Igola, un buon listino quasi di sé, insomma, per certi titoli, però spesso stentano, hanno tempi di sfruttamento molto, molto contratti, ecco, quindi non riescono a trovare tutto il pubblico che potrebbero, e la tanto decantata multiprogrammazione, non so il prezzo per parlarne, se si stia rivelando un boomerang, ma insomma forse non dà i risultati sperati, ecco, cioè alternare spesso sale e orari dei film magari crea più confusione che altro, insomma. E comunque non ci sono più le sale, ecco, la verità è che mancano quelle sale di città, come si dice, fino alla nausea ormai da anni, che consentivano a questi film di esistere, con i loro tempi, che sono tempi lenti, certo non è il tempo del film super pubblicizzato dall'evento della settimana o del mese che tutti si precipitano a vedere, certo. Hanno bisogno del passaparola, ma insomma non sono novità purtroppo. Fabio, i tuoi cinque? I miei cinque, guarda, faticosamente, ma sono questi, potrebbero essere altri, perché ti dico, già 10 sono pochi. Allora, di slancio, a proposito di Davis dei fratelli Coen, Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch, Berlusconi lo teniamo a parte come italiano, perché ho diritto a un extra italiano, quindi teniamolo fuori dalla lista, anche se ci sarebbe fra i cinque, Boyhood di Linklater, Vivian dei fratelli Elkabetz, Ronit Sloane Elkabetz, e Mommy di Xavier Dolan, così copriamo anche un certo numero di paesi, insomma, sì, israeliano, sì, canadese, due americani. E poi Berlusconi a parte, appunto, dovendoci limitare a 5, perché sennò sarebbero molti. Certo. Una nota per ciascuno? Ma a proposito di Davis, come dire, è piacere puro, non so, è forse il film che mi ha fatto più godere quest'anno al cinema, con Solo gli amanti sopravvivono, che è un film più elegante, più malinconico, più così, che fotografa meglio il trapasso, come dire, di epoca che stiamo vivendo. A me poi Jarmusch piace sempre moltissimo, quindi ogni volta mi sorprende, ogni volta ricomincia da un punto in cui non ti aspetti, restando fedele a se stesso, ma insomma ogni volta diverso. Tengo a dire che ho inserito Vivian degli Elkabetz, non so se sia più bello o meno, ma insomma l'ho visto dopo e questo conta, e poi forse Anna Arabia di Amos Gitai è un film dell'anno scorso, perché Fonda Venezia l'abbiamo visto nel 2013, ma era l'altro grande film israeliano che avevo nel cuore, ed è straordinario come un piccolo paese, delle enormi tensioni, come Israele riesca ancora a produrre sempre film così decisivi, insomma, così capaci di parlare al mondo come questi due. Pensa che di Vivian mi piacerebbe farne una messa in onda audio. Stavo pensando, perché funziona anche dal punto di vista teatrale, io ho una trasmissione di radioteatro, per cui ho colto subito questa opportunità, mi piacerebbe molto. Credo che funzioni, fallo. Sì, sì. Forse lo puoi addirittura serializzare, poi spezzettare in qualche puntata, perché questa struttura non negli anni. Certo. Con pochi inserti. E poi Boyhood, che dire, è il contrario di tutto quello a cui il cinema americano ci ha sempre abituato, e già questo lo rende straordinario. È straordinario il modo in cui è stato realizzato, insomma, ci voleva molto coraggio a fare un'operazione, mica è detto che per 12 anni riesce ad andare avanti. Ed è straordinario anche il risultato finale, insomma, è un film che tocca corde molto profonde, ma senza, come dire, senza mai farsi notare, senza mai alzare la voce, anzi è un film che può facilmente essere frainteso o non colto appieno, proprio perché appunto non ha la struttura drammaturgica forte, al contrario del cinema e del cinema americano in particolare. È tutto un po' in levare, insomma, finché parla molto anche attraverso i vuoti, il non detto, il sottaciuto, le allusioni, e questo lo rende secondo me straordinario, uno dei film più belli proprio di quest'anno. E poi c'è il ciclone Mommy, insomma, per me vincitore morale di Cannes quest'anno, tutto l'amore per Nuri Bilge Ceylan, che ha vinto la Palma d'Oro, ma insomma per me doveva vincere Mommy, perché tre grandi prove d'attori, poi sì, assolutamente, e non hanno neanche vinto le attrici, ma lì credo per un problema che non si possono dare due premi allo stesso film, insomma le attrici sono fantastiche, anche lui, anche il ragazzo, sì, e poi è un film fatto, se ci pensi, di, come dire, di poco, è un film di dove la messa in scena è stretta entro confini molto molto rigorosi, molto precisi, già stretta proprio fisicamente in quel quadro, no? In quel formato così quadrato, ma poi in fondo sono solo facce, grida, sono le passioni che comandano, non c'è un dispositivo di regia così soverchiante e seducente come in altri film, eppure il film ha una forza straordinaria. E Berlusconi, dicevi, una come menzione? Ma Berlusconi, appunto, di film italiani belli e molto belli ce ne sono stati tanti quest'anno, anche lì di genere molto diverso, per fortuna, dal Capitale Umano alle Meraviglie, a Non bisogna dimenticare, La sedia della felicità, e non solo perché il povero Mazzia Curati ci ha lasciato, perché era veramente un film, è stato un film straordinario, Un canto del cigno. Però Berlusconi ha quella cosa in più, insomma, anche perché sta appunto a cavallo tra finzione e realtà. È una specie di documentario fantastico, perché sì, è un documentario sul mondo reale, ma insomma quello che svela è talmente fuori dal mondo in qualche modo, così, che sembra costantemente inventato, ai noi non lo è. È il film forse che ti lascia più pensoso tra tutti quelli che abbiamo citato, che appunto richiede anche un tempo di impatto, di assorbimento molto molto lungo, ci vuole parecchio tempo a elaborare, non a caso finché è stato abbastanza rifiutato dal pubblico, purtroppo, mentre era un film prezioso per capire certe cose di cui parliamo tutti i giorni sui giornali, però insomma poi vengono disertate al cinema. Bene, Fabio, allora abbiamo un 3 su 3 per Boyhood e i Coen che salgono a 2 con la tua menzione. Io ti abbraccio, un buon 2015 e ci vediamo in sala. Certo, a presto. Ciao, a presto, ciao. Fabio Ferzetti, questo è uno speciale Visionari anticipato rispetto al giovedì solitamente in cui va in onda. Giovedì prossimo sarebbe stato il 1 gennaio, un po' complicato, quindi abbiamo anticipato ad oggi. Dovrebbero essere più parecchi gli ospiti di quest'oggi, colleghi e critici cinematografici e amici, chiaramente. Andiamo avanti con le nostre telefonate. Alberto Crespi, ben ritrovato. Voi come state? Ti sento un po' altalenante, hai un campo... Ora dovrebbe andare meglio. Ora va meglio, decisamente meglio. Bene, meno tu male. Come va? Tutto bene. Grazie di avermi chiamato, anche se il giornale su cui scrivevo è momentaneamente chiuso. È vero. Lo considero un gesto di solidarietà. Esatto. Allora, abbiamo già... avuto alcuni ospiti, alcuni titoli già si sono ripetuti. Comunque, intanto, di partenza chiedo anche a te un bilancio di quest'anno, Alberto. Mi è sembrato un anno di transizione, diciamo. È un anno che per il cinema italiano resta segnato dalla grande vittoria di Paolo Sorrentino negli Oscar, che è avvenuta fisicamente nel 2014. Naturalmente il film è del 2013, per cui diciamo che il 2013 era stato un anno di titoli notevoli, importanti, sia in Italia che nel mondo, e che l'onda lunga del 2013 ha invaso felicemente i primi mesi di quest'anno. Non so, faccio un esempio: Il Capitale Umano di Paolo Virzì, che è un altro film molto bello, è uscito nelle sale italiane all'inizio nei primissimi giorni del 2014, ma è stato pensato, realizzato, tirato, promosso naturalmente nel 2013, per cui è un po' difficile decidere in quale anno inserirlo, ma per noi fa testo l'uscita nei cinema, giusto? Esatto. E allora mi piace ricordare, non li metto nella mia cinquina, lo anticipo, però mi piace ricordare che nelle prime settimane del 2014 sono usciti secondo me i due film più belli dell'anno, ovvero Nebraska di Alexander Payne e A proposito di Davis dei fratelli Coen, che erano stati in concorso a Cannes come La grande bellezza nel 2013. Quindi diciamo che il 2014 è stato un anno un po' parassita, ha approfittato della roba buona che c'era nel 2013 per farsi bello. Una piccola nota: a Nebraska ho dedicato la copertina della trasmissione di oggi con una foto di scena con il grande protagonista davanti ad una rotaia. E mi pare giusto perché è veramente un film bellissimo, sì, insomma, sicuramente sì. Uno dei film più belli, ecco, ripeto, usciti nel corso del 2014, sì, anche sì, se naturalmente va considerato un film dell'anno precedente. Allora, andiamo con i cinque. Allora, i miei cinque sono strani, ci ho messo due film italiani, Le meraviglie di Alice Rohrwacher e Anime nere di Francesco Munzi, rispettivamente in concorso uno a Cannes, Le meraviglie ricorderete vinse il Gran Premio della Giuria, che è un premio importante, e a Venezia, dove invece Anime nere di Francesco Munzi non ha vinto nulla, e secondo me è stata un'ingiustizia, perché è un film sull'Andrangheta molto bello, molto intenso, forte, ben girato, benissimo interpretato. Invece i film stranieri che mi fa piacere ricordare ai nostri ascoltatori sono un americano, ovvero Boyhood di Richard Linklater, che è quel film girato nell'arco di una ventina d'anni, con gli attori che invecchiano, i giovani attori che fanno i ragazzi che crescono, con Ethan Hawke e Patricia Arquette. Un film forse in cui la formula produttiva e narrativa, appunto quella di raccontare davvero l'invecchiamento nel corso degli anni delle persone, prevale addirittura sulla bellezza, però è un'operazione molto interessante che Linklater, appunto grazie alla complicità dei due attori citati, ha realizzato nel corso di molti anni, e il risultato è affascinante rispetto a tanti film dove vediamo invecchiare gli attori o ringiovanire a suon di trucco, no? A suon di make-up. Credo che siamo, scusa se ti interrompo, ma si tratta quasi di, credo, un record, perché su quattro interlocutori sei il quarto che cita Boyhood. Sì, ma non mi sorprende molto, perché è un film che ha colpito molto, era in concorso a Berlino, un film molto particolare, è un film che potremmo ritrovare agli Oscar tra poco tempo. Poi mi piace ricordare quello che rischiava di essere l'ultimo film di Ken Loach, Jimmy's Hole, pure in concorso a Cannes, ma uscito in Italia da poco, la storia di questo militante sindacalista, organizzatore culturale, agitatore culturale irlandese tra gli anni 20 e gli anni 30, nell'Irlanda appunto di quel periodo, e poi uscendo dall'Italia, uscendo da Hollywood, uscendo dal cinema di cui parliamo sempre, vorrei segnalare, sperando che qualcuno l'abbia visto, che qualcuno abbia ancora voglia di andarlo a vedere, questo film argentino, uscito da poco, ma anche lui era a Berlino, quindi l'abbiamo visto al festival quasi un anno fa, Storie pazzesche di Damián Cifrón, un film argentino a episodi, molto un po' la risposta argentina ai mostri di Dino Risi più 50 anni dopo, ecco. Mm-hmm. Episodi di ordinaria follia, di esplosioni di violenza nella vita di tutti i giorni, non tutti dello stesso livello, però ecco, senza dire nulla, perché rovinare la sorpresa sarebbe un crimine contro l'umanità, ma il primo episodio, quello che si svolge sull'aereo, è una delle più folgoranti idee di sceneggiatura che io abbia visto in ormai 40 anni di frequentazione delle sale cinematografiche. Isolato, preso da solo, è probabilmente il più grande corto della storia del cinema. Mi piace questa. Però non chiedermi di che cosa parla, perché se te lo dico rovino tutto. Certo. Diciamo che un po' di persone prendono un aereo e scoprono e sono attesi da una sorpresa abbastanza sconvolgente. Alberto, dicevi, alcuni li hai spiegati, Jimmy Saul, a quello che so, Ken Loach lo considerava il suo ultimo lungometraggio prima di dedicarsi esclusivamente ai documentari. Tu sai qualche altra cosa invece? Ma guarda, è stato recentemente in radio da noi a Hollywood Party su Radio 3. Io gli ho fatto la domanda trabocchetto, perché dovete sapere che a Cannes Ken Loach disse una cosa molto divertente. Quando gli chiesero: ma questo qua sarà il suo ultimo film? Lui disse: ma aspettiamo di vedere come va l'Inghilterra ai mondiali. Ken Loach è un grande tifoso di calcio. Allora gli ho detto: beh, Ken, dopo la figura barbina che l'Inghilterra ha fatto ai mondiali, cosa hai deciso di fare? Qui serve un altro film. Lui ha detto: sì, sì, dopo quello shock terribile forse troveremo la forza e i soldi per fare un altro piccolo film, magari non ambientato nel passato, produttivamente un po' più semplice. No, credo che Jimmy Saul non sarà l'ultimo film narrativo di Ken Loach. Credo che grazie a Roy Hodgson e alla sua nazionale Armata Brancaleone, credo che vedremo un altro film di questo grande regista. Senti, qualche breve nota su questo film e sulle meraviglie, che sono i due di cui hai parlato di meno. Quale dicevi? Le meraviglie e Jimmy Saul. Dunque, sì, Jimmy Saul è la storia di un personaggio realmente esistito che si chiamava Jimmy Grelton, che era un militante comunista nell'Irlanda degli anni 20, che era inviso sia agli inglesi in quanto irlandesi, sia alla curia irlandese, ai preti, in quanto comunista e ateo, per cui stava sulle scatole a tutti, tranne che alla popolazione della sua contea, dove si era inventato una cosa che a noi italiani ricorda moltissimo le case del popolo, cioè un luogo dove si faceva attività politica, ma si faceva anche divertimento, intrattenimento, si ballava, si organizzavano match di box, si giocava a carte, si facevano corsi di cucito o di poesia, e questo lo provocò la sua messa al bando da parte delle autorità della sua contea, che lo costrinsero ad andare in esilio negli Stati Uniti. Il film è il suo ritorno in Irlanda dopo 10 anni negli Stati Uniti e il suo tentativo di rimettere in piedi appunto quella casa del popolo, ed è un film politicamente forte ma molto tenero, anche divertente in certi momenti, come quando Ken Loach parla dell'Irlanda, è un paese che lui ispira molto e che gli regala a volte le sue opere migliori. Le meraviglie, lo sappiamo, è un film, è il secondo film di Alice Rohrwacher, secondo me è una delle registe italiane importanti da tenere d'occhio. È una storia in parte autobiografica su una famiglia che negli anni, sembra di capire che siamo tra gli anni 70 e 80, insomma, si rifugia in campagna a produrre miele, una famiglia di apicoltori che in qualche modo rifiutano la modernità, ma come succedeva in quegli anni, la modernità sotto forma delle TV private, sotto forma di tutto l'immaginario pop di quegli anni, li viene a cercare. È una bellissima storia di famiglia, con un bellissimo rapporto tra Alba Rohrwacher che fa la madre e le ragazzine che fanno le figlie. Un film tenero, stilisticamente originale, secondo me uno dei film italiani più belli degli ultimi anni. Un gran premio alla giuria Cannes strameritato, e Alice Rohrwacher va attesa con fiducia ai prossimi film, che speriamo siano tanti. Tra l'altro Alba, la sorella Alba Rohrwacher, l'attrice, ha partecipato a questo film che ha vinto il Gran Premio della Giuria a Cannes, e poi con il film di Saverio Costanzo ha vinto la Coppa Volpi a Venezia, per cui per Alba è stato, ecco, fosse necessario scegliere un nome che sintetizza il 2014 del cinema italiano, decisamente è stato l'anno di Alba Rohrwacher. Bene, bene. Alberto, ti ringrazio, io ti abbraccio, un buon 2015. Anch'io. E arrivederci presto in sala. Arrivederci presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Alberto Crespi, questo è uno speciale Visionari con le cinquine tra i film usciti in sala, in quelli che abbiamo preferito. E ben ritrovato anche a Mario Sesti. Ciao Mario, come va? Bene, grazie, voi come state? Bene, bene, abbiamo già quasi un'ora di trasmissione, sono uscite fuori anche delle cose piuttosto interessanti. Ti chiedo, come faccio a tutti all'inizio, un tuo bilancio di quest'anno. Non ho capito, scusami, mi chiedi? Un tuo bilancio di quest'anno. Senti, a me sembra un'annata piuttosto ricca, non so per quale ragione in realtà. Però insomma, ho avuto difficoltà a sceglierne solo 5. Sono stati degli anni in cui invece avevo difficoltà a trovarne 5 che potessi difendere a qualsiasi costo, diciamo. Sì. E rispetto al discorso distribuzione, che ho chiesto anche questo aspetto perché insomma l'Italia ha delle caratteristiche e anche delle carenze da questo punto di vista. Ma io credo che una volta tanto, diciamo, le carenze ci uniscono a tutto il resto del mondo, e la distribuzione in sala, che è diventata uno dei tratti più deboli dello spettacolo del cinema, pur essendo stato storicamente quello che ha consentito al cinema di essere il linguaggio, il media di più ampia e vasta e rapida diffusione di tutta la storia almeno del Novecento, no? Però guarda che sta succedendo con The Interview. Vabbè, c'è una causa specifica molto particolare, no? Sì. Però alla fine un film così di cui si è parlato è stato distribuito in 300 copie in America, no? E sta facendo un sacco di soldi online. Ho l'impressione che insomma la sala diventerà sempre più qualcosa di simile ai posti come i teatri, le opere, i posti dove si fanno i concerti di jazz, cioè un posto in cui la gente andrà, dove ci sta qualcosa che ha la natura dell'evento, no? Mentre perderà sempre meno quel connotato di specialissimo che è stato il posto in cui c'è una funzione quotidiana, no? Dove si andava semplicemente per vedere dei film alla mia età, durante l'arco di tutta la settimana, o semplicemente quasi esclusivamente sabato e domenica, per qualcuno solo a Natale, come sai, no? Sì. Quindi non riesco a fare un discorso, diciamo, di critica del mercato, delle istituzioni o delle politiche rispetto alla distribuzione. Credo che la distribuzione, se tu intendi per l'appunto lo spettacolo in sala, per il momento in questa fase è sicuramente esposta al grosso pericolo di una forma di, non dico di estinzione, ma sicuramente di riduzione ai minimi termini, no? Storicamente non vedo come si possa rimontare la competizione pazzesca, naturalmente, del downloading, cioè quello, il problema vero è quello, no? L'altra faccia del problema della distribuzione è quello, no? Come, sì, no? L'accessibilità del cinema su file, quasi sempre di natura naturalmente illecita o illegittima, è tale che la sala, l'esercizio, la distribuzione hanno una scarsissima competitività rispetto a questa cosa. Come risolve questa cosa qui? Io non ne ho la minima idea, devo essere sincero. Senti, i tuoi 5? Allora, i miei 5, dunque, è con un certo orgoglio che innanzitutto ci sono due film che mi hanno lasciato a bocca aperta, come forse non mi succedeva da un bel po'. Uno è L'immagine mancante di Ricky Pan, che ha avuto una distribuzione, diciamo, naturalmente assolutamente rapsodica, però anche lì, no? Poi a un certo punto sono andato su Amazon e me lo so comprato, no? L'altra forma di quella cosa che dicevamo è anche questa, che comunque il cinema è reperibile, no? Anche se si può comprare, no? Quando io ho iniziato a fare questo mestiere, i film non è che potevi andare online e te li compravi, no? da tutti i film possibili, oggi si può fare. Quindi L'immagine mancante di Ricky Pan, che è una roba, stava anche nella cinquina degli Oscar, io non so come il miracolo di parlare di una cosa così tragica come il genocidio, no? di Pol Pot, ma in maniera così dolce, così soave, no? Che è la maniera migliore per rispondere alla cosa, alla violenza della storia, del destino, della politica, no? Parlare in maniera dolce, quasi con tenerezza e nostalgia, di qualcosa di così tremendo, no? Anche se non è la nostalgia naturalmente dell'Olocausto, no? Ma la nostalgia come effetto più tragico e più terribile di ciò che il genocidio ha completamente spezzato, la vita precedente. Poi c'è un altro film che mi è piaciuto tantissimo, soprattutto mi ha sorpreso, Ida. È un film che non si capisce, il regista non ha fatto niente di simile uno, da dove viene, no? Fuori, insomma, credo che l'abbia scritto il critico del New York, non c'è nulla nella filmografia di questo regista che faccia pensare a un film del genere. un bianco e nero così bello, delle inquadrature così particolari, no? Con tanta aria in testa, e poi questa storia pazzesca, no? E alla fine il messaggio è: se il mondo e la vita sono questi, è meglio la clausura, diciamo, fondamentalmente, diciamo, mi ha lasciato a bocca aperta. Poi ci sono tre ottimi film. Uno è Anime Nere, che secondo me è il miglior film italiano dell'anno. L'altro è Nebraska, un altro film di un regista che avevo sempre trovato un pochino sopravvalutato, sì, in realtà proprio nei suoi temi raggiunge uno zenith, una perfezione. Anche un film che parla di oggi, anche quello del modo in cui è impossibile non essere soli, diciamo, no? Lasciati soli nella propria vita, anche a una certa età, anche dalla famiglia, anche dall'ambiente della natura e di miglia che ci circondano. Gli ho dedicato la copertina di questa puntata a una foto di scena, quindi sono in the mood, diciamo così, della trasmissione. E poi un film di un regista molto appartato che io amo molto, cioè Koreeda, che è Tale padre, tale figlio. È una storia, la più antica storia che ci sia, la storia di due figli scambiati, no? Però mai raccontata con attori così bravi di qualsiasi età, con apparente semplicità, ma una incredibile quantità di sfumature. È incredibile come una storia così raccontata si potessero dire tante altre cose ancora che ancora non sono state dette. Mm-hmm. E poi sembra una storia appunto raccontata in un paese di altissima modernizzazione, di grandissima tecnologia, eccetera, però sembra raccontata come se uno fosse in un villaggio di pescatori oppure in una società contadina, no? Poi le emozioni e tutto ciò che c'è tra un padre e un figlio, la consanguinità, no? Alla fine la forza è sempre la stessa. Anche quello mi ha molto preso, anche commosso. Ecco, questi sono cinque folti film. I primi due sono proprio due film, ripeto, mi hanno lasciato a bocca aperta, non rimanevo da tempo, no? Sì. E come credo che anche tu condividi questa cosa, insomma, è una cosa che spera sempre, no, entrare in un cinema gli possa succedere, no? Sì. In questo momento non mi ricordo quali altri film, per esempio, hanno avuto lo stesso effetto. Sì. Io ho riflettuto, mi sono tornati in mente spesso nel corso dell'anno, ecco, diciamo così. Stavo pensando a questa cosa del lasciare a bocca aperta. Io per la gioia visiva, questo effetto per esempio me l'ha fatto, anche se magari non lo metto tra i primi cinque, però una menzione la farei per Wes Anderson. È vero, è stato veramente un godimento visivo, sì. Hai ragione, e devo dire, questo conferma però quello che ti dicevo, no? Se quest'anno non avessi avuto quel film così belli, nei primi cinque ci sarebbe stato sicuramente quel film di Wes Anderson, che probabilmente è il più bel film di Wes Anderson dei tempi dei Tenenbaum, probabilmente, no? Sì. Lì c'è un regista che aveva l'impressione che avesse già detto tutto, un po' come succede secondo me alla Coppola, anche se so che è pericoloso fisicamente dirlo questo, perché ci sono tanti suoi estimatori, no? Ha l'impressione che abbia già detto tutto quanto nei primi due film e continui a dire la stessa cosa un po' meno bene negli altri. Invece c'è un colpo di reni, no? nel Grand Hotel Budapest, che ti dà l'impressione al contrario, che sia un po' tutto quello che ha già detto, ma mai detto in maniera così, con una potenza sinfonica, con una ricchezza della sua abilità, quella di costruire scene, costumi, colori, ambienti, di inventarsi mondi, di costruire piccoli, un'infinità e minuta di dettagli per un'inquadratura, veramente ancora più sorprendente di quello che era già successo. Insomma, al di sotto di questi cinque probabilmente ci sono altri cinque che sono anche dei bellissimi film, però come sai, la crudele legge della selezione, i cinefili sono quelli che amano fare le liste, e le liste devono essere a numero chiuso, sennò che liste sono, certo. Mario, io ti abbraccio, ti ringrazio e auguri 2015. Poi. Assolutamente, poi però naturalmente mi fa piacere sapere quali sono i 5 no, definitivi vincitori. Certo, no? Certo. Dovremmo essere, pensa, in 15 quest'anno, 15-16 dovremmo essere, quindi ancora più ricca degli altri anni. Ho visto che la lista dei critici si è ulteriormente ampliata. Sì, e se non finiamo oggi c'è anche la puntata dell'8, te lo dico da subito, insomma. Ok. Un abbraccio. A te, ciao Mario. A te e a tutti i tuoi ascoltatori. Auguri, ciao Mario. Mario Sesti. Ritroviamo anche Nicola Falcinella. Ciao Nicola. Ecco, ciao a tutti, bentrovati. È un piacere ogni anno. Sì, un appuntamento fisso ormai. Un appuntamento fisso. Allora, quest'annata che ne dici? Ma è stata sicuramente una buona annata. A livello internazionale ci sono di qualche film notevoli. Forse non c'è il film epocale, cioè così pensando il film proprio così stupefacente io non l'ho trovato. Per quanto poi il mio preferito dell'anno è stato Boyhood di Richard Linklater, che è stato osannato per tanti motivi, così, però non ha, io l'ho amato molto, mi è molto piaciuto, però anche questo forse è stato troppo enfatizzato il fatto che lui per 12 anni abbia seguito il ragazzo, la famiglia, così mi sembra che sia stato un po' enfatizzato, però il film mi è piaciuto tantissimo, mi sembra proprio di, mi ci sono ritrovato, mi è sembrato di rivivere le varie fasi della vita, e quindi per quella ragione è il mio preferito. Però ci sono diversi film di alto livello. Per quanto riguarda l'Italia, io non sono molto convinto dei film che hanno avuto anche tanto successo in questi mesi. Ti sento bassissimo, ecco, adesso. Ora sei tornato, sì. Ti sentivo bassissimo. Sono in una zona piuttosto ventosa oggi, quindi magari è disturbata la luce. Il cinema italiano negli ultimi anni sono stati positivi perché ha vinto tanti premi, dall'Oscar, il Leone d'Oro, i Gran Premi della Giuria a Cannes, eccetera, eccetera. Però in generale mi sembra che siano tutti film molto, molto sopravvalutati. E se devo pensare a un film italiano quest'anno, ancora torno a Ermanno Olmi e torno a Tani Prati, dove c'è comunque il respiro di un grande cineasta, per quanto sia un film non perfetto, però ha dei lampi, ha un cuore, si sente il respiro di un cineasta di grande livello. Invece la mia cinquina, al di là di Linklater, sarebbe Il Regno d'Inverno, sì, di Nuri Bilge Ceylan, e poi Due giorni e una notte dei Dardenne, sì, e poi due film, anche questi non è che siano stati visti più di tanto, e poi due film che sono passati purtroppo un po' in sordina, che sono The Look of Silence di Joshua Oppenheimer, che ha vinto il premio a Venezia e poi è stato distribuito, ma e puoi ripetere, Nicola, perché non si è sentito. The Look of Silence, ok, come Oppenheimer, come anche la Pasetti, ok. Chiaro, un po' di titoli in comune, credo, anche se non so cosa abbia scelto lei, ce le avremo. E poi L'immagine mancante di Ricky Pan, okay, che è arrivato in Italia da poco, con più di un anno di ritardo rispetto alla presentazione al Festival di Cannes, e quindi sono due film sulla storia del sud-est asiatico, entrambi documentari, ma insomma documentari ormai una definizione che credo sia superata, bisogna trovare un termine nuovo, soprattutto nel caso di Ricky Pan, che appunto mescola l'animazione e tante cose per ricostruire queste immagini mancanti della tragedia della Cambogia. E quindi così, questi due film che sono la, chiamiamolo cinema del reale, non lo so, però sono la storia recente dell'Indonesia e della Cambogia, riletta, riraccontata, esplorata in modi molto, molto originali, soprattutto dal punto di vista cinematografico. E basta pensare al protagonista del film di Oppenheimer, che appunto l'importanza degli occhiali nel suo sguardo. E The Look of Silence è comunque un film che è il seguito di The Act of Killing, sempre dello stesso regista, che un po' sullo stesso tema. Per chi aveva visto The Act of Killing prima, forse The Look of Silence è meno una rivelazione, è meno inventivo, però è comunque un film molto, molto denso, molto importante, molto anche sconvolgente per quello che racconta e per come lo racconta, perché poi alla fine il cinema è il come si raccontano le cose. E poi vabbè, Dardenne ovviamente, perché mi sembra uno dei film, forse il film che più ha raccontato quello che sta succedendo nel mondo del lavoro, quello che si sta perdendo, chiamiamola la coscienza di classe, chiamiamola una consapevolezza dei lavoratori, come si vuole, ma comunque si è molto persa e il singolo lavoratore si ritrova solo a far valere dei diritti. E appunto il film di Dardenne secondo me è molto forte in questo. E il quinto, appunto, che quinto per modo di dire, è quello di Ilja Gyulan, che è al passo del grande romanziere. È un film molto lungo, sono più di 3 ore, che è un po' astratto, un po' teatrale, non a caso il protagonista è un attore, lavora nel teatro, e però ha questa dimensione proprio dichiarata del romanzo russo. E poi ci sono, secondo me, stati anche altri film che ovviamente facciamo la cinquina, bisogna lasciare fuori, però dal film di Godard a Dio Langage al film di Xavier Dolan, che non capisco perché venga tanto denigrato, che a 25 anni è già il quinto lungometraggio, comunque un lungometraggio maturo. E poi il film di mi è piaciuto molto, uno dei migliori Woody Allen di questo millennio, forse il migliore. Qualcuno ha detto che si sente poco Woody Allen, però secondo me se si sente poco Woody Allen si sentono i grandi, cioè si sente Cukor, si sentono proprio un Woody Allen che non ha un suo alter ego, ma che riesce a questa leggerezza di tocco del racconto, e a me ha molto convinto. Bene. E che altro? Va bene, ci sono stati diversi film interessanti, Nymphomaniac, quello di Jarmusch, è stato una buona annata, una buona annata, direi. Peccato, peccato che questi film qui non abbiano avuto un grande impatto, non hanno, cioè, il loro esito commerciale credo che sia stato molto basso in generale. Sì, c'è una forbice sempre più larga tra pochi titoli che fanno parlare di sé sui giornali e poi vanno anche nelle sale, e tanti come film di Riti Panna che passano quasi sotto silenzio, o come Oppenheimer che magari vince un premio importante però poi lo vanno a vedere in pochi. Sono anche film difficili da proporre, non sono film di intrattenimento, però mi spiace. Nicola, ci si vede se sarai di passaggio a Roma o a qualche festival in giro per l'Italia. A qualche festival sicuramente. Un abbraccio e un buon 2015. Un saluto a voi e un augurio per il 2015. A presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Nicola Falcinella, questo è lo speciale Visionari su Radio Onda Rossa, generalmente il giovedì dalle 14 alle 15, quest'oggi uno speciale per quanto riguarda le cinquine dei film preferiti tra quelli usciti nelle sale di quest'anno solare 2014. Abbiamo ancora diversi ospiti. Il nostro Valerio San Marco, ciao Valerio. Ben trovati, ben trovato Fede, come da tradizione ormai una telefonata all'anno, no? Quella che toglie il medico di torno. Anche se poi fortunatamente ci vediamo anche alle proiezioni, insomma. Sì, va detto che insomma continuiamo a coltivare questa passione comune. Allora, che ne dici dell'annata intanto? Ma credo tutto sommato sia stata un'annata discretamente positiva, intanto per quello che riguarda anche la produzione nazionale. Mi vengono in mente insomma film che sì, anche se realizzati nel 2013, hanno avuto la loro maggior affermazione proprio quest'anno. Pensiamo all'Oscar di Paolo Sorrentino. Pensiamo anche all'affermazione nei festival internazionali di film come quello di Alice Rohrwacher, Le Meraviglie, che comunque rimane uno dei film italiani più belli di questo 2014, non ultimo Il Capitale Umano di Virzì, che purtroppo pochi giorni fa insomma ha avuto la non piacevole notizia di essere stato escluso dalla corsa agli Oscar. Però insomma ecco, tutto sommato anche per quello che riguarda la produzione internazionale, soprattutto nei più grandi festival, insomma penso a Cannes, a Berlino, lo stesso Venezia, abbiamo avuto modo di vedere film, penso ecco per esempio a Birdman di Narritu, che uscirà a febbraio, che è tutto sommato un film del 2014, però di cui avremo modo insomma di parlare alla fine del prossimo anno, perché noi ci concentriamo sulle uscite di quest'annata qui. Esatto. Per quanto riguarda la distribuzione, Valerio, che dici? La distribuzione, devo dire, insomma i problemi sono sempre gli stessi, anche se va detto proprio nell'ultimo periodo, io poi non a caso insomma nella mia cinquina, magari andando anche contro quelli che sono i giudizi di merito che tenderanno ad escludere film comunque bellissimi, penso ai Coen o allo stesso Nebraska, di cui so già hai fatto la copertina della trasmissione odierna, però ecco, mi è piaciuto concentrarmi su alcuni film che hanno avuto una distribuzione chiamiamola minore, penso a Officine Ubu o ai Wonder Picture, che comunque riescono sempre a pescare comunque film secondo me di enorme valore, che poi possono avere più o meno fortuna per quello che riguarda insomma la capacità di arrivare al grande pubblico, però che riescono poi a pescare dei veri e propri gioielli. Sì. I tuoi cinque allora? Le mie cinque sono il primo, perché se non ricordo male è uscito proprio all'inizio del 2014 qui da noi, è The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, che reputo veramente forse uno dei più grandi film arrivati da noi quest'anno. La completa consacrazione di Leonardo DiCaprio, che per l'ennesima volta insomma si è visto sorpassare poi alla corsa agli Oscar, però insomma credo sia un film che rivedrei in qualsiasi momento, che ho già visto due o tre volte, e che probabilmente se adesso mi dicessero vediamo un film probabilmente non avrei difficoltà a rivederlo. Pensa che non è nella mia cinquina, ma tra le due menzioni. La prima l'avevo fatta prima con Mario Sesti, ed era The Grand Hotel Budapest di Wes Anderson. Sì. E questa, la seconda, è proprio relativa a Scorsese. Beh sì, insomma ritengo sia un film abbastanza travolgente, trascinante, la dimostrazione che insomma Scorsese ancora oggi è in grado di fare qualsiasi cosa voglia, la capacità di insomma spaziare da prodotti come quello precedente, Hugo Cabret, che ci aveva sorpreso per la sua freschezza, no? Per la sua capacità di raccontare ancora oggi i il cinema attraverso, insomma, il cinema stesso in qualche modo. Ecco, The Wolf of Wall Street, pur partendo da una storia vera, da un'autobiografia, riesce comunque a dimostrare quale sia stato poi il tracollo del sogno americano, e lo fa secondo me attraverso, insomma, una capacità, di una lucidità di costruzione del racconto veramente, veramente, insomma, irraggiungibili. Poi per quanto riguarda gli altri film, ecco, qui arriviamo al discorso, insomma, dei film un po' più invisibili, anche se per esempio Il sale della terra di Wim Wenders ancora, credo, se non sbagliare, forse in programmazione, quantomeno a Roma in tre sale ancora, se non sbaglio. Esatto, e credo sia, ecco, forse il film che mi ha sorpreso e stupito di più all'ultimo Festival di Cannes, dove non gareggiava in concorso ma nella sezione del Un certain regard, e credo sia un film magnifico, insomma, sì, un documentario a tutti gli effetti, anche se ormai insomma, credo da queste sequenze sia ormai stato bandito, no? la differenziazione, il discrimine, esatto, il discrimine, il paletto tra documentario e film di finzione ormai credo sia veramente qualcosa che appartenga al passato. E questo film realizzato in concomitanza col figlio di Salgado, insomma, il paragone è pressoché impossibile, però parlavamo prima di Scorsese, la capacità di raccontare il cinema attraverso il cinema. Qui Wim Wenders racconta l'immagine attraverso il suo nutrimento primario, no? Attraverso la fotografia, e la fotografia si fa movimento attraverso il racconto di Salgado. Credo sia veramente un film imperdibile, che spero ancora riesca ad essere visto dalle persone, insomma, approfittatene, visto che ancora in sala, è un'esperienza unica, secondo me. E pensa che è tra i miei cinque. Ah, vedi, queste sono le cose che ancora adesso andrò a dire. Un film che invece quasi sicuramente, insomma, non è nella cinquina di nessuno, però ricordo l'abbiamo visto insieme anche questo, è Frank, è un film insomma piccolissimo, film di Lenny Abramson con un straordinario Michael Fassbender, che scopriamo solo alla fine di essere, esatto, di essere l'attore insomma che tutti conosciamo. È la storia semi autobiografica di questo frontman inglese, Frank Sidebottom, e la peculiarità, insomma, è che racconta appunto la vitalità e la depressione di un gruppo d'avanguardia alle prese con insomma la genialità e la depressione del suo frontman, appunto proprio Frank, mascherato con una gigantesca testa di cartapesta, impossibilitato a mostrarsi per quello che è al mondo. E credo sia un film insomma fantastico, proprio per la capacità che ha di spiegarci qual è il processo creativo, no, musicale, il processo anche umano che porta alla creazione, e la difficoltà di rapportarsi poi ad una platea, ad un pubblico, cioè la grandezza dell'artista che non sa come autopromuoversi in qualche modo. E credo sia un altro film che, se ancora insomma non l'avete fatto, sia il caso forse di vedere, probabilmente già disponibile in un video, anche se pure qui sentivo forse prima Mario, insomma, oggi come oggi è possibile, insomma, recuperare il cinema di qualsiasi parte del mondo, cioè basta essere connessi, si riesce ad acquistare qualsiasi cosa anche in rete, quindi ben venga, insomma, se l'avete perso in sala e volete correre ai ripari, credo sia un film da vedere. Okay. Poi ti sorprenderò qui, perché uno dei film insomma, che mi ha colpito di più e che è tuttora in sala, uscito da poco, è Gone Girl, l'amore bugiardo di David Fincher. Non l'ho visto, ma veramente, spaventato. Poi ho, diciamo, convinto mia moglie a venirlo a vedere, pur sapendo che andavo contro i miei stessi interessi, perché insomma è un film, adesso non posso raccontare molto perché rovinerei insomma la visione sia a chi non ha letto il romanzo sia a chi ancora non ha visto il film. Ma mi è piaciuto molto come Fincher abbia tripartito il suo racconto, no? Cioè, se ci pensi è una sorta di thriller classico che poi si camuffa e diventa qualcos'altro, diventa una sorta di parodia del thriller stesso, diventa una sorta di parodia di come i mezzi di informazione, come la comunità si riunisca intorno ad una tragedia, no? E insomma è un film che mi ha veramente molto colpito, che ho visto forse con poca, insomma mi fidavo poco di questa operazione, invece mi è piaciuto molto. Bene. E forse ecco lo metto nella cinquina proprio perché è una visione insomma non freschissima, perché l'ho visto al Festival di Roma, però visto che è in sala in questi giorni, insomma diamo una motivazione in più alla lotta, no, che c'è in questi giorni tra i vari cinepanettoni. Probabilmente ecco insieme al film di Gallocci forse è il film delle feste che più mi consiglio, che più mi sento di consigliare a chi va in sala in questi giorni. E poi ho molta difficoltà per il quinto film, che è sicuramente italiano, e quindi adesso valuta tu anche per il conteggio insomma che cosa convenga. Insomma a me sono piaciuti moltissimo, l'ho detto prima, Le meraviglie di Alice Rohrwacher, sì. Mi è piaciuto moltissimo Il giovane favoloso di Martone, ma forse più di questi due ho amato particolarmente Anime nere di Francesco Munzi e sempre visto a Venezia, anche se nella sezione Orizzonti, Berlusconi di Franco Maresco. E ho molta difficoltà a scegliere tra questi ultimi due, cioè tra Anime nere, se dare il voto ad Anime nere e la menzione a Berlusconi o viceversa. Mm-hmm. Quindi valuta tu. No, che valuta tu. No, scherzo. Diciamo che ecco, facciamo così, allora, visto che Berlusconi ha vinto comunque il premio, se non ricordo male, della giuria di Orizzonti, diamo allora la menzione a Berlusconi e diamo invece il voto ad Anime nere di Munzi, che ingiustamente secondo me non è stato premiato a Venezia e che credo sia insomma la vera completa affermazione di un regista come Francesco Munzi, che già ci aveva sorpreso all'esordio con Sainir e che si era diciamo abbastanza confermato col secondo film, che era Il resto della notte, se non ricordo male, e con questo terzo film insomma dimostra veramente quanto sia ormai capace di parlare anche ad un pubblico internazionale. Cioè la storia l'avrete già insomma raccontato, dei legami tra tre fratelli calabresi e l'andrangheta, anche insomma diffusa a livello internazionale, come poi si ritorni al microcosmo di questa famiglia attraverso una serie di vicissitudini. Insomma è un film veramente veramente splendido, coinvolgente, con una struttura narrativa molto importante, con un'interpretazione corale meravigliosa, dove poi insomma ad eccellere un cast formato non dai soliti volti noti, no? Patinati o insomma viene in mente Marco Leonardi, che ormai ha una carriera ultra trentennale, ce lo ricordiamo da ragazzino nei film di Pupi Avati, o insomma cresciuto con Marco Risi, però insomma qui dimostra proprio una caratura spaventosa. E tra i sette finora che interlocutori è il terzo voto per Anime nere, quindi insomma è messo bene. Valerio, io ti abbraccio, ti ringrazio e un buon 2015, ci si vede al cinema. Un abbraccio anche a te, a Federico, e a tutti gli amici in ascolto. Ciao ciao. Questo era Valerio San Marco per Visionari. Maurizio Di Rienzo, ben ritrovato. Ok, ciao, buonasera, salve. Ciao. Anche quest'anno anche tu ci sei e, e subito la parola per quanto riguarda il tuo bilancio di quest'anno. Ma bella domanda, è la più semplice e la più difficile. Come al solito quantità non è corrisposta sempre a qualità, ma alla fin fine i film che vediamo, che escono, che il pubblico riesce a vedere, oppure quelli che vanno per festival che ancora non sono riusciti, festival più importanti, loro che non usciranno mai, ecco, fanno un corpo articolato, ma a suo modo unico, cioè il sistema cinema in Italia, tanto per essere chiari, produzione, distribuzione, esercizio, francamente è arrivato al dessert e anche all'amaro. Quindi o cambiano delle cose, oppure è evidente che il cinema sarà vissuto, osservato, masticato, digerito, rielaborato e reinventato attraverso quei cosiddetti canali che sono altri, canali che evidentemente fanno dei passi da gigante pure in una non regolamentazione del web, diciamo così. Detto questo, per il cinema italiano sembra sia stato un anno comunque di miracoli, perché è evidente che con tutte le premesse non era semplice riuscire a proseguire sulla linea delle opere prime di un certo rilievo. E voglio segnalare Sebastiano Riso, che è andato a Cannes alla Semaine de la Critique, Più buio di mezzanotte, ovviamente Sibilia e Pif, due facce di una medaglia della stessa, ma potrebbe prima o poi diventarla, io preferisco Sibilia, e Edoardo Winspear, che è stata la mia cinquina ideale, con In grazia di Dio, film fatto col baratto, letteralmente, totalmente indipendente, dalla terra di Edoardo, che è il Salento, con attori non professionisti, ma un film ineccepibile e anche, se volete, significativo. Verzì, col Capitale Umano, comunque ha ben rielaborato un romanzo ed ha svoltato anche verso una drammaturgizzazione, non si poteva dire, perciò non lo posso dire. Allora, verso una strada che non è quella che ha percorso per molti anni, anche se alcuni segni si erano già visti in tutti i santi giorni. Il miracolo vero all'incasso è Mario Mastone col Giovane Favoloso, e per fare una battuta speriamo che succeda anche ai italiani col Meraviglioso Boccaccio. Io mi sono proposto al produttore della Palomar, che ha fatto Il Giovane Favoloso, cioè Leopardi, di fare il sensazionale Ariosto, non so se me lo faranno girare, ma vabbè, vedremo, insomma, non ce la facciamo. Comunque Mastone ha fatto un film importante con qualche un ganglo teatrale, con qualche lunghezza, ma un film importante. La sorpresa dell'anno forse il film di genere, non è di genere secondo me, è un film e basta, dei Manetti, Son de Napoli, e poi per proseguire con Venezia, Costanzo, Munzi, cioè Hungry Hearts, che sta per arrivare, di Costanzo, premiato come direttore a Venezia, Nunzi, Anime Nere, e poi c'è stato un film non monito, una sorta di Kammerspiel fiabesco e molto moderno nel suo essere scandito, che è il film di Olmi, Torneranno i prati, che a me è piaciuto molto proprio per il concetto che c'è dietro. E questa magari è una panoramica italiana, insomma. Beh, anche Le Meraviglie, ovviamente, ci ha meravigliato per il secondo premio. Però Lo sguardo di Alice Rovacca mi è piaciuto già molto, Il corpo celeste, e devo dire che come racconta lei i territori e i rapporti delle persone con la cultura del luogo, che sia la familiare delle Meraviglie, che sia quella sì familiare ma più complessa della Reggio Calabria suo primo film, ma io credo che sia un occhio registico già maturo, e quindi ci dobbiamo aspettare delle belle cose anche da Alice Rohrmacher. Forse ci sono anche altri film, ma volevo essere abbastanza sintetico. Questo il cinema italiano ha prodotto, e sono sicuro che quello che sta per arrivare dovrebbe, per il semestre almeno, essere su una certa linea. D'altra parte si dice già che il film prossimo di Io e mia madre di Moretti, che il film di Paolo Sorrentino, il film di Garrone, da Basile, Costume, costato un sacco, con attori americani, sono tre pretendenti a essere ospitati al Festival di Cannes in maniera prestigiosa. Poi ci mettiamo bell'occhio, e una pare Cristina Comencini, che ha ritrovato le corde di una commedia seria, la stessa Archibugi, il remake di un film francese che sta per uscire. Ecco, che mi sembra che probabilmente, diciamo che siamo sempre una squadra di grandi individualisti e qualche volta riusciamo anche a portare a casa il risultato. Allora, ci focalizziamo ora sui cinque che hai preferito. Quali? Cinque generali. Cinque generali. Non vorrei mettere nessuno italiano, ma non per niente, perché ne ho parlato adesso. Perché, certo. Ma io, Boyhood. Richard Linklater è un regista importante, un regista che ha giocato con il mezzo tecnico, e che ha una sua opinione del cinema d'autore molto collaborativa, molto, molto forte, e in questa operazione di seguire 12 anni un gruppo di persone, una famiglia con attori, nati attori e altri attori che nascono attori in questo film, insomma l'ho trovato davvero molto molto molto bello. Il sesto voto su 8 partecipanti, quindi pensa, 8 ospiti ai visionari, 6 voti sono stati per Boyhood. Su 8 già 6? 8 già 6 lo hanno votato. Bene, mi fa piacere, perché insomma credo che abbia un senso. Per andare a un altro sguardo sul mondo, io credo che l'equilibrio che c'è nel film di Christopher Nolan, Interstellar, fra la normalità rurale di una situazione quasi apocalittica nello stato, così, penso sia il Texas, non vorrei sbagliare, o forse no, però comunque uno stato dell'America, degli Stati Uniti d'America centrale, lo stato, e invece tutto quello che immaginificamente e anche quasi matematicamente unisce il cuore e la scienza nella parte in cui Matthew McConaughey e Anne Hathaway vanno altrove, eccetera, si trovano altrove, ecco, insieme al rapporto del padre con la figlia, lo stesso Matthew McConaughey, io credo che sia un film importante, veramente molto importante, e che oltretutto scardina anche il ricordo di kubrickiana memoria, perché in qualche modo ne è, secondo me, un erede a 44 anni di distanza. Poi direi Mommy di Xavier Dolan. Ok. Tutti parlavano di questo 25enne canadese, il quinto film, ignorato al Festival di Cannes, errore, la giuria quest'anno forse non è stata attentissima. E Mommy, per chi l'ha visto, è un'esperienza. Solo il frame, cioè il formato in cui inquadrati i personaggi, che sono solo due in campo, no? Per essere più di due, perché diciamo che l'inquadratura è stretta, e tutta questa intimità però viene fuori con un senso anche di oggettività, grazie anche all'interpretazione di madre, figlio e di altre persone. Mommy ha dei dialoghi che sono imbarazzantemente concreti, non voglio dire veri, e è un film terrestre. E poi questo Dolan ce lo dobbiamo trovare sicuramente, continuerà a lavorare con questa sua capacità di osservazione e questa sua sensibilità. Poi non posso non citare, direbbero i retori, Grand Budapest Hotel, perché Wes Anderson è un altro di quei registi che, rispetto anche all'altro Anderson, Paul Thomas Anderson si è un po' perduto ultimamente, Wes Anderson è uno che rigioca la stessa carta ogni volta, ma quella carta ha un colore diverso, o è spade, o è bastoni, o è denari, o è cop, non si capisce. Questa volta ha fatto un film che è un affresco quasi, come voglio dire, da fumetto, insomma, e ha fatto trionfare l'ironia nella classicità. Quindi a parte degli attori che ci stanno dentro, che basterebbero da soli tutto il cast a fare 4 film, certo. quindi io dico Mommy, Interstellar, Boyhood, Grand Budapest Hotel, e poi piacendo, essendomi piaciuti molto il piccolo film Frank, essendomi piaciuto Il sale della terra, notevole, Salgado e Wim Wenders insieme, sappiamo di cosa parliamo, però io vorrei spezzare la lancia ottomana, anzi turca, la Palma d'Oro di Ceylan, Il regno d'inverno, che non è entrato nella shortlist come tanti altri film importanti europei e non europei, nella shortlist dei 9 degli Oscar. Ecco, Ceylan ha questa finalmente maturità straordinaria, da Usaki in poi, alle Tre scimmie, C'è una volta in Anatolia, insomma riesce a raccontarci per 3 ore e 20, un tempo che non è reale, romanzato, un profondo stato d'animo, un discorso di coppia, e anche il senso della proporzione che c'è fra la creatività, l'individualità e tutto quello che significa per il personaggio protagonista, e tutto quello che significa evidentemente fare delle scelte apparentemente senza farle. È un film bellissimo, e quindi ho buttato lì questo circuito. Bene, Maurizio, auguri per il 2015, ci si vede in sala. Speriamo presto, e io voglio augurare a tutti soprattutto un ottimo 2025, perché secondo me quello sarà l'anno del contatto. Esatto. Ciao Maurizio. Ciao. Maurizio Di Rienzo a Visionari. Emanuela Martini, ben ritrovata. Ciao, buonasera. Tutto bene? Sì, non c'è male, a parte il raffreddore e il freddo terribile, però va bene. Allora, io comincerei subito con la tua opinione su quest'annata. Ma guarda che non è male in realtà, perché quando ho dovuto fare una lista di 10 per Cineforum, e in realtà dalla mia lista, in cui avevo già eliminato un sacco di altra roba, c'erano 16-17 film, che insomma non è malaccio, poi sono scelto 10 naturalmente. E ora restringiamo ulteriormente. Senti, sul discorso distributivo? Sul discorso distributivo, vuol dire i film che arrivano, che vengono distribuiti in Italia? Siamo sempre su così così rispetto ad altri paesi. Fortunatamente ci sono un po' di piccole giovani compagnie distributori indipendenti che arrischiano un po' di più, però le uscite sono quel che sono, lo sappiamo tutti. Cioè siamo arretrati, infatti per esempio io il mio secondo della lista è un film che dell'anno scorso. Io ovviamente nella lista tengo conto dei film usciti in Italia quest'anno. Certo. E il mio secondo è un film che in realtà è uscito in Italia quest'anno, ma è dell'anno scorso, almeno mi pare. Bene, allora ci focalizziamo su questi 5? Sì, allora. Primo, li vogliono dire di preferenza, vero? Come vuoi. Sì, vabbè, comunque, primo Boyhood di Linklater. Incredibile, che... a 7 su 9, 9 interlocutori, 7 lo hanno, 7 compresa te. Sì, che è veramente, io l'ho visto due volte ed è veramente un film straordinario. Io tra l'altro non sono una particolare fan di Linklater normalmente, però devo dire che stavolta veramente ha trovato la vena giusta, la storia giusta. Vorresti che non finisse mai, anche alla seconda visione, considerato quello che dura, tra l'altro. E pensa che me lo avevi già citato quando ci siamo sentiti per Torino. Quindi cos'era, 3 mesi fa? Ero già sicura che sarebbe stato quello, comunque. Perché è un film veramente, un'operazione, un film, cioè un unicum. È difficile che salti fuori, se ti prende, se ti acchiappa, è difficile che salti fuori qualcosa che lo batte. E ha battuto il mio secondo, che è Only Lovers Left Alive di Jarmusch, ok, che spero abbia molte candidature anche quello. Jarmusch no, ha avuto Fabio Ferzetti come stimatore, ecco. Fino a Boyhood, vabbè che Boyhood la prima volta l'ho visto a Berlino, cioè quasi un anno fa, però quanto mi piaceva veramente fino in fondo l'ho verificato con la seconda visione, che è stato quest'autunno. E Jarmusch se la batte secondo me con Boyhood, è un film molto raffinato, effettivamente è un film anche difficile se vogliamo. Terzi c'ho due che se la battono un po' l'uno con l'altro, e sono, quindi uno è il terzo e uno è il quarto, non so piazzarli. Uno è Wolf of Wall Street di Scorsese, sì. E l'altro è Six Maria di Assayas, ok. Diversissimi, due grandi film. So che Scorsese non avrà raccolto molte menzioni, immagino, anche perché è un film che è uscito all'inizio dell'anno, per cui tendiamo un po' a dimenticarceli, no? Compreso il tuo, a due voti e una menzione. Però è un gran film, secondo me. E Sis Maria, vabbè, Sis Maria bisogna vederlo in originale, non so, credo che sia uscito in edizione doppiata. Solo Sis Maria bisogna vedere l'originale, però veramente una rielaborazione del melodramma classico assolutamente straordinaria, a parte con 200 livelli di lettura. E quinto, un altro film dello scorso anno, ed è il film di Ricky Pan, Le Mute Mancante, che finalmente, grazie a un piccolo distributore, è uscito in Italia. Non so in quante sale sia uscito, ed è un altro film straordinario, perché non è in animazione come uno può sospettare che sia, è solo fatto con dei pupazzetti di argilla, terra, non so bene, ognuno dei quali a seconda di quello che succede nella storia ha delle espressioni diverse, veramente un lavoro pazzesco anche quello. Questi sono i miei cinque. Bene, e a questo punto, visto che ne parlavamo rapidamente fuori onda, se hai delle menzioni per qualche italiano. Sì, beh, secondo me menzioni sicuramente Martone, il giovane favoloso, e Olmi, sicuramente entrambi. Okay. Sono due film notevoli, tutti e due. Poi secondo me forse bisognerebbe anche fare delle menzioni su dei film piccoli, tipo Divergent, del quale in questo momento non mi ricordo neanche il nome del regista. Neanch'io. Che è un piccolissimo film americano, di quelli proprio che escono, credo sia uscita effettivamente a luglio, qualcosa del genere. Però forse anche a queste cose molto piccoline forse bisogna, ogni tanto bisognerebbe, anche di genere se vogliamo, questo è insomma vagamente di genere, forse bisogna un pochino seguirle. Infatti io per esempio nella decina che ti dicevo, escludendo altre cose più importanti e probabilmente più belli, però gli ho messo dentro. Bene, insomma abbiamo fatto, sei stata piuttosto chiara e concisa. Emanuela, io ti abbraccio e un buon 2015 anche a te e anche a tutti quanti voi. A presto. Ciao. Ciao, ciao. Emanuela Martini. E c'è anche Giorgio Gosetti. Ben ritrovato, Giorgio. Ritrovati a voi e tanti auguri. Auguri. Allora, quest'annata, dacci delle tue considerazioni. Facendo la nostra pratica fisica mi era tutta voglia, la prima volta da tanto tempo, di fare nazionale italiana contro il resto del mondo. Faticiamo a... Ti sento un po' male, dovresti spostarti forse. Così non ti sento. Vediamo se raggiunge una posizione adeguata. Mi senti meglio? Ora molto meglio. Dicevo che pensavo addirittura di fare una nazionale italiana contro il resto del mondo, perché contenere in cinque titoli mi risultava davvero difficile. Ti ho riperso però, Giorgio. Ma hai riperso un'altra volta? Sì, ti sento che vai e vieni. Se non mi muovo di mezzo metro? Ecco, forse è meglio, sì, ecco. Ok. Allora, annata bella nell'insieme. Sì. Tutti dicono sempre non c'è nulla da vedere, non mi pare vero se guardo il 2014, una gran fatica a selezionare solo pochi titoli. Molti hanno fatto questa considerazione, sì. E se dovessi fare una classifica metterei 5 italiani e 5 stranieri. 5 italiani e 5 stranieri. Però noi, allora facciamo noi... così, intanto ci focalizziamo sulla cinquina e poi puoi menzionare se poi menzioniamo gli altri. Gli altri, se non... Ok. Allora, saranno alcune scelte un po' controcorrenti. Ok. Torneranno i prati di Ermanno Olmi. Olmi, ok. Secondo me il più bel film di tutto il 2014, o almeno il più importante. Ok. Interstellar di Christopher Nolan. Interstellar, un film che vale la pena di più di considerare per originalità. Non posso non farlo, essendo il direttore delle giornate degli autori, Ritorno a La Habana di Laurent Canté, vincitore del premio delle giornate. Ritorno a La Habana. Quarto, per la spregiudicatezza, la voglia di avventura, la voglia di festa e la voglia di fine d'anno, Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatore. Ah, ok. Sei il primo che lo cita. Lo so, vado un po' controcorrente, ma sono contento che il pubblico non mi dia del tutto torto in questo caso. Ok, siamo e a 4. Quinto. Sì. E quinto, un film forse anche questo non molto citato, Vivian di Shlomi e Ronit Pikedetz, il film più direi significativo e forse il film più scoperto di tutto quest'anno, sono profondamente grato ai distributori italiani che lo hanno fatto vedere anche nelle nostre sale. Tu e Fabio Ferzetti lo avete... Certamente una delle grandi sorprese dell'ultimo Festival di Cannes. A questo punto puoi anche farci alcune citazioni. Le citazioni vanno per Il giovane favoloso di Mario Martone. Sì. Smetto quando voglio, Evviva, un'opera prima italiana che mette d'accordo tutti e piace soprattutto all'estero. Vado molto per le commedie quest'anno, quindi Grand Hotel Budapest. Ah. Molto sorpreso e spiazzato. E mi ha dato una gran felicità di vederlo. Sì, anche a me. Song e Napoli dei fratelli Manetti. Perché no? Perché non trovare che noi abbiamo anche genialità in attese? E poi il meraviglioso Jim Jarmusch di Solo gli amanti, che è arrivato tardi sui nostri schermi, ma che secondo me è un film che rimarrà un pochino, almeno nella filmografia di Jarmusch, come un punto alto. Bene, bene. Beh. Ti ho dimenticato? No, mi sa che li hai detti tutti e 10. 5 nella cinquina e poi qualche citazione sparsa, insomma, sì. E Grand Budapest Hotel siamo in 3 ad averlo considerato. Jarmusch forse anche di più, sì. Dai, sono contento. Sono veramente contento. Interstellar, tu e Maurizio Di Rienzo. Ermann Olmi anche a più di una citazione, sì. Va bene così. Ma poi se pensiamo che si apre il 1° gennaio con Imitation Game, American Sniper, Big Eyes. Beh, sì. Se c'è un auspicio è di un inizio d'anno bello, via. Ok, allora Giorgio, io t'abbraccio, buon 2015 e ci vediamo. Tantissimi auguri e a presto a nuove avventure. Presto, ok, ciao. Grazie a tutti, ciao. Giorgio Cosetti a Visionari per le sue cinquine. Non ci speravo più, e invece Federico Pontigia, eccolo qua. Ciao Fede. A volte ritornano galleria con incidente e segnalazione luminosa, ma ci siamo. Ci siamo. Allora Fede, non so se hai seguito via internet lo stream. Non ho sentito nulla perso. In gallerie ripetute, sono in Valtellina. Ok, però... Chi lo conosce, lo sa, è pieno di gallerie. Quindi non Dai. Sei influenzabile. Non sono influenzabile. Allora, quest'anno com'è andato per te? È andato bene dal punto di vista del cinema italiano, con un unico film, ovvero La grande bellezza di Paolo sì. Sorrentino, On Plane, dagli EFA ai Golden Globe, agli Oscar, un trionfo al di là di ogni aspettativa. Male viceversa per come chiudiamo l'anno con un cinema italiano in debito di ossigeno, il non cinepanettone Filmauro, assai deludente, non artisticamente, quello già si sapeva, ma anche dal punto di vista degli incassi, appena medio Alto Giovanni e Giacomo, e L'Hobbit, che ha fatto meno degli anni scorsi, ma comunque da qua a definire un successo ce ne vuole. Quindi un anno in chiaro scuro è purtroppo una definizione che spesso abbiamo dato anche nei precedenti anni, nei precedenti collegamenti. Ok, e i tuoi cinque, Fede? Allora, i miei cinque: The Wolf of Wall Street. Ok. Straordinario film di Martin Scorsese, non solo un grandissimo film di Martin Scorsese, ma un grandissimo film sull'oggi, con i vari derivati tossici dell'economia e il self-made man, che non solo nutre ancora l'immaginario e l'American Dream, ma gli immaginari globali, anche quelli americani, con i vari furbetti dei quartierini e parentela affine, per arrivare fino ai noi a Mafia Capitale. Secondo posto, i vampiri esistenziali, esistenzialisti e assai cinematografici davvero, di Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, con la coppia, secondo me con la coppia meglio assortita e più sensuale del grande schermo. Chi l'ha visto il film già la conosce. Ancora però credo che in quest'anno ci sia stato spazio davvero per una competizione alla pari con il cinema italiano, io in cinquina metto sicuramente Il giovane favoloso di Mario Martone con Leopardi, e mi viene da dire con Elio Germano, quasi ancora prima con Leopardi, perché davvero ha reso Leopardi un personaggio, non solo un ruolo. L'ha reso un protagonista mettendosi al servizio senza ingobbirsi, e pare davvero un gioco di parole, ma così è rimasto. Elio Germani ha restituito un Leopardi lontano dalla muffa, dalla polvere di come la scuola ce l'ha restituito. Grandissimo Elio Germano, non c'erano bisogno di conferme, ma ce l'ha data l'ennesima, e lui l'unico grande attore italiano. Sì, credo sia al di là delle premiazioni, dei premi importanti che ha avuto, credo sia la sua migliore interpretazione. Lui purtroppo, ma succede spesso, ha avuto un premio, il premio più importante, quello a Cannes per La nostra vita di Lucchetti, che è la sua interpretazione a mio avviso peggiore. Parliamo sempre di grandissime interpretazioni, questa è un'interpretazione straordinaria. Cannes ha dimostrato per l'ennesima volta di non capire qual è l'offerta italiana migliore di valore, non ha preso Martone da Cannes e ha sbagliato. Questo è un grande errore, errore di Cannes, gloria di Venezia. E siamo a tre. E siamo a tre, poi metto ancora un grandissimo film, mi sconosciuto ma per debiti gravi della distribuzione italiana, Lei Fader Lei Son, ovvero Fader and Son, nella traduzione BIM italiana, di Hirokazu Koreeda, grandissimo regista giapponese. La storia è arcinota, è nota come il mondo, due figli e due culle scambiati, I figli della mezzanotte di Salman Rushdie e poi di Pameta, versione di Laurent Levy anche portata in Medio Oriente per stare alle, come dire, alle esternazioni cinematografiche più recenti. Hirokazu Koreeda, regista nipponico, riesce ad elevare questa storia a desueta, perché come dire notissima come appunto il mondo è, a livelli di eccellenza empatica, commozione, grandissimo, grandissimo film. Il tuo voto va come quello di Mario Sesti per questo film, sì. Va bene, vuol dire che ha buon gusto. Allora, siamo a quattro. Me ne manca uno? Sì. Allora, l'ultimo film, io e anche tu, credo, l'abbiamo già visto, però esce tra poco, esce il 15 gennaio. Io do il mio voto, lo metto a cavallo, è stato già presentato ma non è ancora uscito in sala, Angry Hearts di Saverio Costanzo. No, io non l'ho visto ancora. Ecco, era a Venezia, sappiamo, ha preso la doppia Coppa Volpi a Alvaro Wacker, non mi ricordo più il protagonista maschile, però credo Adam Driver, scusate. E grandissimo, grandissimo film, storia delicatissima tratta da, e adattato ovviamente, trasposto anche seguendo le sue inclinazioni e le sue come dire ossessioni artistiche, da Saverio Costanzo, tratta da Il bambino indaco di Marco Franzoso. Grandissimo film, farà discutere assai, in bilico tra come dire codice o prescrizione alimentare nutrizionistica e invece discorso anche di genere, discorso maschile e femminile soprattutto, e a prescindere tutto il resto, discorso cinematografico. Un film da vedere per iniziare bene il 2015. Ok, per questo, ma per essere rigorosi, ne hai uno di scorta? Ne ho uno di scorta, sì, ce l'ho di scorta, e voglio indicare un altro film italiano, che questo era a Venezia, Francesco Munzi, Anime Nere, molto citato, film, sì. Okay. È un film che dal punto di vista proprio della regia secca non mi ha entusiasmato, una regia molto classica, ma classica come la tragedia greca che racconta. film straordinario però, e potente, immaginifico e demiurgico, perché dimostra che dopo Gomorra, libro, film, serie, dopo romanzo criminale, libro, film e serie, un'altra descrizione, decrittazione meglio della criminalità era possibile. Arcaica, antropologica, lendrine raccontate da Munzi non hanno nulla da invidiare a questi, come dire, fratelli di criminalità, cinema, letteratura, arte in generale. Anche questo a Venezia, salutato dal plauso della critica internazionale. Venezia ha dimostrato più che negli altri anni con un trio, un terzetto mai indovinato come quest'anno, ovvero Munzi, Martone e appunto, diciamo prima, Saverio Costanzo, uno stato di salute del cinema italiano che non è estendibile a tutto il cinema italiano, che però segna delle eccellenze artistiche individuali che ci fanno ancora grandi. Ok. Fede, io ti ringrazio, un buon 2015, ci vediamo al cinema. Anche a voi, scusate per il collegamento, ma tant'è, la Valtellina è una valle poco ospitale a livello almeno di linea telefonica, tutto qua. A presto Fede, ciao. Un abbraccio, ciao, ciao, ciao, ciao. Federico Pontigia, Visionari. Ci fermiamo qui per quanto riguarda gli ospiti di questo speciale Visionari sui 5 film dell'anno scelti da un gruppo di amici, colleghi, critici cinematografici. Sono stati con noi Alberto Crespi, Maurizio Di Rienzo, Nicola Falcinella, Fabio Ferzetti, Giorgio Gosetti, Emanuela Martini, Paolo Mereghetti, Anna Maria Pasetti, Federico Pontigia, Valerio San Marco, Mario Sesti, e ce ne sono ancora 4 che probabilmente sentiremo nella puntata d'inizio gennaio, l'8 gennaio per la prossima puntata di Visionari, e così concluderemo con queste votazioni.